voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Quinta puntata. Età. Un giorno un uomo, che amava la sua vita e quella degli altri, comunque fosse, ma non si guardava mai allo specchio, uscendo dal bagno si vide un attimo e gli bastò quell'attimo per capire tutto. Allora rientrò, accese con coraggio e calma tutte le luci e si guardò negli occhi. «Gli occhi sono ancora vivi», si disse, e li esaminò bene. Guardò dentro il nero della pupilla come a un uomo armato contro di lui in combattimento notturno o in un film. Anche lui era armato. Chi avrebbe sparato per primo? Ci fu una pausa. Nessuno sparò. Entrambi sorrisero, ma solo internamente, e fu soltanto perché si conoscevano molto bene, ma sarebbero stati pronti a sparare, che ognuno vide il sorriso dentro la pupilla dell'altro. «Non è un sorriso», pensò l'uomo. «Non c'è nessuna allegria in questa specie di sorriso. C'è gioco, c'è anche un po' di paura, c'è sfida. Un puzzle, insomma, e c'è soprattutto la vecchia età che non ho, ma che dimostro». L'uomo fischiettò. Sapeva fischiare bene, ma lo faceva molto di rado. La canzone era «Night and Day». Vide che aveva le palpebre stanche, come avvizzite da un eccesso di alte temperature, caldo e freddo, troppo sperimentate con nessuna prudenza, e disse: «Che grande musicista Cole Porter! Si potrebbe fare un gioco, anzi, facciamo un gioco. Qual è la più bella canzone del mondo?» Fischiò Stardust, The Man I Love, Tenderly, quelle che gli parvero le migliori tra quello che si può chiamare canzone. Forse proprio Night and Day, ma non sono sicurissimo, sono quasi sicuro però. E ricordò brevi periodi della sua vita, giudicata ancora giovane, in cui c'erano quelle canzoni. Gli sembrarono tempi lontanissimi. 1000 anni fa avrebbe potuto facilmente lasciarsi andare a considerazioni sull'esistenza, ma l'occhio duro del nemico allo specchio con l'arma puntata glielo proibì, ed egli lo ringraziò e disse anche «Thank you». Il nemico strizzò l'occhio come dire «Di nulla». Vide che i capelli, un tempo biondi, rossi e ricciuti, erano grigi e pochi. Aprì le due ali dello specchio e si accorse per la prima volta che alla sommità del cranio erano pochissimi, dei peluzzi, delle specie di piume tra l'uccellino morto ma ancora palpitante e i capelli del neonato. Si rinforzavano alla nuca con qualche riccetto color rame. In compenso il collo scuro entrava nella camicia a righe azzurre con una certa forza. Questo lo rinvigorì abbastanza da affrontare un'altra volta la faccia che gli era stata antipatica per tanti anni e per questo non si guardava mai allo specchio. Era un uomo completamente privo di vanità, ma la amava e la odiava e invidiava negli altri perché sapeva quanto fosse cara alla vita. La faccia era migliore di quando era più giovane, era diventata più coraggiosa, ma fragile, e non aveva quasi più paura di nulla. C'erano 3 rughe sulla fronte. Volendo, potevano diventare 3 solchi, più 2 solchi verticali all'attaccatura del naso. La pelle, grazie al vino, si manteneva bene. Anche la Piaf è stata una grande cantante, e anche Yves Montand. Fischiò Milord subito dopo La Vie en Rose, ricordando con più banalità possibile Parigi, Tour Eiffel, Senna, Beaujolais freddo, Rue Jacob, La Portugaise de Charlot, ma disse: «Night and Day è più bella, non c'è niente da fare». Vide che dalla tempia scendeva una ruga verso la guancia e il mento. Anzi, all'inizio, all'attaccatura tra orecchio e tempia, erano tre, ma due scomparivano subito, mentre la terza, quella vera, compiva tutto il suo percorso fino in fondo. Poi verranno le altre due, quelle due baby che cominciano ora, ma che io non nasconderò con le basette dei giovani vecchi basettoni di tutto il mondo. No, non le nasconderò e anzi le lascerò crescere, ora che sono nate, con la loro giusta età, piano piano e poi improvvisamente come crescono i bambini che di colpo sono già uomini. O signorine. Preferirei signorine, ora sono bambine, ma preferirei che fossero due rughe femmine, due signorine da collegio e più tardi donne eleganti, con candori, rossori e vera timidezza che durasse tutta la loro vita. L'altra invece è una ruga maschio, senza nessuna timidezza e candore e neanche l'ombra di un rossore. Quella fa la sua strada da maschio cretino, ha già fatto carriera, bella roba. E vide che l'altro non aveva nessuna voglia di ascoltare, ma egli la guardò lo stesso. Non ha labbra, pensò. Non ci sono quasi labbra e sembra una ferita. Non ha nemmeno la bellezza che può avere una cicatrice, secca, ben rimarginata, liscia e con la pelle tenera. No, è una ferita eterna. Una brutta bocca che va tenuta chiusa in modo che sia soltanto una piega e basta. Per la sua bocca ebbe un moto violento di antipatia, ma in più aggiunse il disprezzo, l'altezzosità verso qualcosa di razza inferiore. Potrò fare il razzista con la mia bocca o no? E cambiò subito pensiero. Anima e core è brutta? Cantò stavolta. Nemmeno Roma non farla stupida stasera è brutta. E se domani? No, sono belle, ma le prime due sono belle e buone come i prodotti tipici italiani, come la mozzarella di Mondragone, gli spaghetti de Cecco e il pomino Frescobaldi. E forse sono così perché sono diventate, o sono nate, prodotti tipici italiani. E se domani, anche quella è italiana, anche Mina è italiana, ma non sono diventate prodotto tipico italiano. Insomma, è una bella canzone e basta. Chissà se piace agli stranieri. Gli americani conoscono. E se domani io non potessi rivedere te? Se non la conoscono, peggio per loro, come mille altre cose. Loro che hanno avuto e perduto Cole Porter, Gershwin e amici e poi non hanno avuto più nulla. Non si può e non si potrà dire mai Porter, Gershwin and Son. Bob Dylan e amici non sono nulla in confronto. Udì l'altro. Lo dici perché sei vecchio. Se fossi giovane ti piacerebbe di più Bob Dylan. E invece no, l'uomo rispose aggressivo e pronto a sparare. E invece mi piacerebbe sempre Porter e Gershwin e Stardust, perché avrei la bontà, la giustezza, il gusto e il sentimento di sceglierli ancora. La realtà è che sei vecchio, anche se non hai gli anni del vecchio, disse l'altro tranquillo e senza alcuna paura dell'arma. L'uomo si incupì, ma un po' sorridendo. E sempre in modo che solo loro due, i due soli uomini al mondo sempre allerta l'uno verso l'altro, capirono. «Mi piacciono i Beatles», disse l'uomo per rifarsi. Diede un colpetto col pollice al naso rotto, si preparò al match finale. «Ti piace di più Night and Day», disse l'altro tranquillo. Risero, tutte e due, veramente allegri per un momento. Apparvero i denti, che erano grandi e forti, ma già un po' deboli all'attaccatura e scuri di fumo, però simpatici e lucenti. Ma l'unica cosa veramente bella e forte erano gli occhi grigi picchiettati di nero, del colore di certo mare del Baltico o del porto di Amburgo quando tira vento a novembre, dicembre, con la grande pupilla nera e profonda che non aveva paura di nulla. Il nemico lo guardò senza più armi, senza scherzare, anzi, anche se per un solo istante con bontà e amicizia. «Nemmeno di quella cosa?» disse con voce bassa o un po' rauca e intendeva la fine della vita e poi il niente. I begli occhi dell'uomo si fissarono un momento dentro se stessi, guardando alcune immagini di vita passata. Non fischiò, ma immaginò di fischiare appassionatamente una canzone di sua madre. A quel punto doveva rispondere e anche dire la verità. «No», disse dopo una lunga pausa, guardando l'altro come l'altro guardava lui, nemmeno di quella cosa. E sentì che l'età di Night and Day finiva in quel momento. Eleganza. Una sera d'estate in un palazzo romano, due amici che non si vedevano da molto tempo si ritrovarono e come animali guardarono i loro movimenti dentro le grandi stanze principesche. Entrambi sapevano che non occorreva parlare. Uno era un pittore e l'altro un uomo volante per l'Italia. «Ciao Mario», disse l'uomo volante. Ci fu un abbraccio frettoloso, poi si guardò intorno. Di là, dalle grandi finestre aperte, si vedeva il cielo non ancora buio, color pervinca, con qualche stella. Un leggero vento entrava e il pittore si mosse qua e là, come seguendo quel vento, in modo un po' timido e un po' no. Non sapevano cosa dire. Schifano, che bel nome italiano, pensò l'uomo guardando l'amico che aveva due scarpini di capretto sul piede nudo e jeans a righe americane. Ma forse a causa del colore del cielo e delle stelle, tornò col pensiero a un grande quadro suo che aveva rivisto pochi giorni prima. Il soggetto del quadro era la scatola dei Baci Perugina. Un grande cielo blu tempestato di stelle e le silhouette dei due amanti Ottocento abbracciati. Le stelle erano dipinte con uno smalto al fosforo e nell'oscurità mandavano luce come le lucciole. L'uomo, che quella notte era molto triste, nervoso e non dormiva, vide il quadro nel buio, in una grande villa al mare sotto la luna. Fu confortato e placato dalle stelle e pensò al suo amico Schifano che le aveva dipinte per calmarlo. Per questo ora si trovava lì. Ma non avevano quasi niente da dirsi e un lieve imbarazzo girava nell'aria nonostante il sentimento dell'amicizia. Stavano in una stanza dal soffitto altissimo, con travi dipinte, tre divani di lana bianca, un enorme tavolo di travertino, una televisione bianca e un complicato e quasi elettronico impianto di giradischi con altoparlanti bianchi dovunque. Non c'erano quadri alle pareti, tutto, salvo le travi del soffitto, era bianco e l'uomo guardò ogni cosa con attenzione. Provò un po' di ingiusta nostalgia per il vecchio studio in Campo dei Fiori, dove c'erano molti quadri e più gioventù nei denti e nei capelli neri di scimmia dell'amico. In quel momento, dalle sale vicine, apparve una giovane donna bionda. Gli amici si alzarono dai divani e Mario disse «Ti presento Nancy». L'uomo strinse la mano della donna e la guardò. Era una donna timida, infantile, con una grande leggerezza interna che somigliava alla passione per le cose leggerissime e la faceva soffrire. Nancy vide subito negli occhi neri dell'uomo quello che aveva capito e cominciò da quel momento a muoversi e a parlare. Nancy era francese e parlava italiano come le francesi molto bene educate, in modo da non deluderlo mai. Mario si avvicinò a lei, la baciò con timidezza e fretta sulla tempia. Poi, solo con timidezza, perché voleva apparire disinvolto, le baciò le dita di una mano e disse «Nancy è il grande amore della mia vita, sai?» E all'uomo parve di vedere sulle labbra di Nancy un piccolissimo sorriso di dolore. «Nancy scrive, sai? Non te l'avevo mai detto che scrive?» disse ancora Mario e accese subito la televisione, il volume fu alzato. L'uomo ebbe un lieve gesto di disturbo, la voce fu abbassata e restarono le immagini mute. Buster Keaton, in cilindro, seduto su una bicicletta, avanzava camminando anziché coi pedali. Arrivò un domestico con tre calici d'argento con del vino rosso. «Belli questi», pensò l'uomo guardando i calici, «ma troppa moquette». E a questo punto cessò di guardare ogni cosa, salvo loro due, che erano intoccabili nella loro naturale eleganza. Che importava il resto? Ci fu una lunga pausa durante la quale Nancy parlò un momento con voce molto bassa. Poi l'uomo domandò con tranquilla curiosità: «Come vi siete conosciuti?» I due si guardarono. Mario la baciò ancora in fretta su un angolo delle labbra. Lei sorrise senza dolore e lui disse: «A una festa, il 31 dicembre del 1970, per pochi minuti. Ci vedemmo appena, poi feci un pranzo per rivedere lei che andò malissimo». «Malissimo perché?» «Perché tutto andò male, la gente era sbagliata, ogni cosa era fuori posto e non c'era nessuna armonia, un disastro». E poi Mario sorrise e tutti e due dissero: «Lei ha telefonato, io ho telefonato». L'uomo rise. «Il coup de foudre, come si dice». Nancy abbassò lo sguardo e disse: «Sì». Partimmo per l'America pochi giorni dopo. «Vedi quella fotografia?» Nancy si era tagliati i capelli cortissimi e portava una camicia da uomo per diventare un'altra persona, una cosa nuova. Nancy parlò a voce molto bassa della sua vita di prima, del suo bambino e, tra le altre cose, in italiano ma con voce francese, disse: «Avrei fatto molte ore di aereo per vederlo solo un momento perché c'era la passione». Cenarono. Insalata russa con uova, un'insalata di frutta. L'uomo volante, per i suoi molti voli, non soltanto aerei, aveva fame. Fu un po' seccato di quel poco e chiese altro cibo. Un po' di formaggio e del riso freddo fu portato dal domestico vagante. Non era una buona cena e solo la presenza di loro due riuscì a far dimenticare all'uomo la voglia di un vero pranzo completo, sanguinolento e abbondante. Sperava, chissà perché, in una bistecca di roast beef con l'osso o in buone cose francesi. Non vennero. Pazienza. Tornarono in salotto. Non parlarono con facilità e scioltezza. C'era tra di loro la distanza tra chi guarda e chi è guardato, un po' come nei musei. Eppure un sentimento molto languido, ma appassionato di famiglia, li univa tutti e tre, insieme a una grande bottiglia di acqua di colonia giallina sul tavolo di marmo bianco. Parlando, ma anche tacendo, l'uomo ricordò altri momenti del suo amico pittore. Lo ricordò più giovane, con capelli corti e scarpe da tennis, spostare danzando grandi quadri. Rideva e dietro la sua figura e la sua risata di Aladino si vedeva Campo dei Fiori con le bancarelle, i fiori, le grasse donne romane. Ricordò le sue donne, un'altra scimmia bionda con denti come quelli di lui. Ricordò i quadri e la pittura di quei quadri che saltellava e volava sulla tela in grandi e piccolissime volute del braccio e delle dita. Ricordò le civetterie di quegli a solo di smalto gocciolante, i duetti tra smalto e carboncino, l'aria e il vento di tutti i quadri che avevano sempre il cielo anche quando non c'era. Ricordò Mario in cappottino nero dentro una vecchissima Morris nera. Lo vide dentro l'acqua del mare, magro, beduino, i capelli da scimmia. Lo vide vanitoso, felice, imbroglione, triste come certi matadores in fotografie del 1930, perfido e furbissimo come tutti i grandi artisti ingenui. E naturalmente si commosse. «Devi tagliarti i capelli, sono troppo lunghi», disse alzandosi dal divano. Mario fece una smorfietta di scontento. Nancy disse: «Glieli taglio sempre io». «Li tagli di più», disse l'uomo. Dopo la smorfietta, Mario sorrise con un'altra smorfietta, come dire: «Ti piaccio, eh? Piaccio a tutti». E nel capire questo, l'amico cascò ancora una volta in trappola e sorrise di quella furbizia ingenua. Parlarono. Con Nancy Mario telefonava o tentava di telefonare, della Francia, della Camargue. «Mario non dorme mai», disse Nancy quando l'uomo nominò l'insonnia. Poi cessarono di parlare. Si guardarono di quando in quando con piccoli sorrisi o cenni, tutti e tre. Poi entrarono due tipi, un uomo e una donna, e l'eleganza svanì velocissima nel cielo romano. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise.